mai m'amò, no quel cor chiusa me, amor per me non ha, per me non ha. Io la rivedo ancora, contemplar triste ne volto, il mio crine bianche le dite che vidi Francia bene. Per pressa finir, l'aurora in bianca il mio verron, già spunta il dì. Passar, vegio miei giorni lenti, il sono addio, spari da miei occhi langue. Giunta sera. sommes.